Non sono preoccupato, diceva Hamid Karzai rispondendo ad una domanda sul problema della sicurezza in un'intervista recente ad Al Jazeera. Non sono preoccupato nel senso che il problema terrorismo non è una minaccia per il nuovo Afghanistan che stiamo costruendo. Questa volta però i talebani ci sono arrivati molto vicini. Gli attentatori, tre dei quali sono rimasti uccisi, hanno aperto il fuoco da un vicino edificio in direzione di Karzai e delle altre autorità sedute sul palco. Tra gli spettatori ci sarebbero due morti e diversi feriti. Karzai è da tempo un obiettivo. Riuscì a salvarsi da quattro precedenti attentati, l'ultimo nel settembre 2002. Gli è andata bene anche in questa occasione. Se i talebani riescono a colpire nel cuore di Kabul non è un segno di forza, spiegava Karzai nell'intervista, ma di mancanza di sufficiente vigilanza da parte delle autorità. Gli episodi del passato sembrano però non aver insegnato nulla. Cristina Balottelli, GR24, Il Sole 24 Ore.